Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. Melog. Il piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. E le chiacchiere chiudono il cuore alla comunità, chiudono l'unità della Chiesa. Il grande chiacchierone è il diavolo, che sempre va dicendo le cose brutte delle altre, perché lui è il bugiardo che cerca di disunire la Chiesa, di allontanare i fratelli e non fare comunità. Per favore, fratelli e sorelle, facciamo un sforzo per non chiacchierare. Il chiacchiericcio è una peste più brutta del Covid, più brutta. Beh, oddio, senza osare e ambire di contraddire il Santo Padre, io preferirei che si dicesse che ho le corna, che sono un alcolizzato, qualunque cosa, piuttosto di essere intubato. Però a piena ragione si esprime Papa Francesco qualche giorno fa, parlando del chiacchiericcio, in un momento particolare in cui un po' di chiacchiericcio anche girava dalle parti di Santa Marta, dicendo che c'è dietro il diavolo. La citazione è propria, è giusta, è coerente nel sentire popolare: dietro ogni maldicenza, dietro ogni ambiguità, dietro ogni falsità c'è sempre comunque il diavolo, che in sé è la sintesi più assoluta della menzogna. Questo vale come principio assoluto, se vogliamo anche come principio filosofico, come regola di vita, e in una condizione di atto di fede o di ortodossia religiosa è una modalità di cui si deve tener conto. Chi è credente, chi crede in Dio, chi crede nel magistero della Chiesa, chi crede nella comunione coi santi, chi crede nella vita eterna, chi crede nella resurrezione della carne, è giusto che chieda, che creda che esista anche il maligno. Non è un'entità astratta, è qualcosa che è presente, che forse è stato molto anche usato come strumento deterrente per capire e mostrare nei memento mori, nelle vanitas, in tutti quegli strumenti iconografici, per capire cosa succede all'empio, al peccatore, per far vedere che ciò che ci aspetta è un'eternità di fuoco, di fiamme, di stridor di denti, di forconate, di diavoli, di pece bollente, di orrendi supplizi eterni, se noi rinunciamo alla grazia, rinunciamo alla vita eterna, rinunciamo alla pratica in vita, appunto, di una vita religiosa, pia e via dicendo. Questa è la base di ogni credenza religiosa, di ogni religione rivelata, di ogni culto condiviso. In questo momento particolare, devo dire, c'è una sorta di ritorno in auge di simboli religiosi, di riferimento comunque al mondo religioso. Sarà che mi sto guardando la prima serie su Amazon Prime del Diario dell'Ancella e quindi ho l'idea di quello che potrebbe essere un futuro distopico di una società basata comunque sulla teocrazia come principio di gestione della cosa pubblica. Ma sarà anche che perché è molto più facile mostrare crocifissi, molto più facile alludere al cuore immacolato di Maria. Faccio riferimenti molto precisi, visto che ho visto ieri, non ho nessun tipo di pregiudizio, far vedere rosari strappati da un'empia attentatrice alla sicurezza di un nostro importante leader politico, quindi mi viene in mente che comunque il valore del simbolo religioso è ritornato ad essere oggetto comunque perlomeno di discussione pubblica, dai crocifissi nelle aule, dalla paura di essere schiacciati dal radicalismo islamico, dal riaffermare alcuni valori di cui non si parlava più in epoche di laicismo affermato, di positivismo applicato, che potevano essere gli anni 70, gli edonisti anni 80, gli questi speranzosi anni 90, gli incerti primi anni 2000, adesso comincia a riparlare in senso molto concreto di pratica religiosa, di Dio, necessità comunque di avere una relazione anche con il mondo spirituale. E quindi, gioco forza, se riappare Dio, deve riapparire anche il diavolo. Il Papa lo cita, e già questa sua citazione in sé ha qualcosa di strano, di un Papa che parla sempre di ecologia, che parla di problemi sociali, che è accusato di essere eccessivamente secolarizzato, ritira fuori il diavolo improvvisamente. Quindi c'è quasi un ritorno comunque a una visione tradizionale: se fai bene, operi bene, hai la vita eterna; se abbandoni la retta via, per te c'è l'oscurità e lo stridor di denti. E proprio in questa linea, che è senz'altro molto importante, di osservazione dei fenomeni della contemporaneità, oggi vari quotidiani, La Stampa con il collega Nuzzi, Il Giornale, presentano un libro che potete già acquistare, Il mio nome è Satana, storie di esorcismi dal Vaticano a Medjugorje, editore San Paolo, con prefazione di Fra Benigno, che è lo pseudonimo di un noto esorcista. L'autore di questo libro, di cui vorrei parlare oggi, vorrei sottoporre a voi l'idea della presenza del diavolo, quanto ancora lo considerate qualcosa di effettivo, di concreto nel vostro agire, nella vostra vita, nel mondo comunque rivelato che noi frequentiamo. L'autore è il vaticanista del gruppo Mediaset, è il mio collega Fabio Marchese Ragona, che saluto. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Allora, oggi uscire con un libro che parla di diavolo, anche se vaticanista è il tuo mestiere, quindi questo frequenti e questo, diciamo, è il tuo focus professionale, è un atto coraggioso. È un atto coraggioso perché è facile oggi, da un punto di vista di pregiudizio laicista, che è altrettanto, secondo me, privo di capacità di argomentazione, come lo è l'integralismo religioso, direi un libro sul diavolo, ritorna anche il diavolo, ci mancava anche questo, torniamo al passato. Però è un libro interessante, perché è un libro basato su testimonianze e su documenti, quindi non è un libro che si pone a dare interpretazione, è un libro che racconta. Innanzitutto dimmi qual è stato il filo rosso che hai cominciato a seguire per scrivere oggi un libro sul diavolo, che è quanto di più lontano dalla realtà attuale dell'analisi di quelli che sono, diciamo, i fermenti, i problemi, le istanze che si muovono all'interno appunto del mondo oltretevere. Sì, ovviamente durante la fase di lockdown abbiamo assistito a una, tra virgolette, riscoperta della fede. Tanti si sono riscoperti cattolici, abbiamo visto gente che urlava davanti alle chiese chiuse, gente che magari non era mai andata in chiesa, però adesso urlava perché le chiese erano chiuse. Ovviamente siamo italiani, sappiamo come funziona, però in questa fase ben precisa c'è stata una riscoperta del bene e anche del male. Per il male però Papa Francesco sta continuando a battagliare da tempo, a mettere in guardia la gente sul fatto che se esiste il bene esiste anche il male, e domenica l'ha definito il diavolo quasi una comare, no? Un chiacchierone. In questo preciso momento la figura del diavolo, il male, viene visto quasi come un'immagine medievale che veniva utilizzata per spaventare i deboli d'animo, i poveretti, no? Viene il diavolo. In realtà, da quello che sappiamo, da quello che raccontano tanti esorcisti, il fenomeno sta diventando sempre più frequente. Mancano esorcisti, servono persone che seguano il fenomeno. Perché mi sembra che si inauguri proprio questi giorni un corso anche a Roma per esorcisti. Lo vedo, sì, sul giornale accanto al tuo pezzo di presentazione del libro. Sì, ci sono tanti corsi di formazione. I vecchi esorcisti, ormai quelli navigati sono pochi, fanno dei corsi anche per aiutare le nuove leve a capire come riconoscere se si tratta di una possessione diabolica o se si tratta di un caso di una donna, ad esempio, che io racconto nel libro, che finge di essere indemoniata per attirare l'attenzione del marito che vuole divorziare da lei. Ci sono anche questi casi, però in questo è un caso antropologico, fu già analizzato da De Martino quando parlava di tarantolate, queste donne poverine, esatto, una società che non dava loro diritto d'esistenza, una volta l'anno saltavano, si facevano possedere perché erano al centro di una cerimonia, finalmente si occupavano di loro. Sì, in questo caso sì, questa donna che in una chiesa va con sintomi di possessione iniziava a urlare guardando le croci, butta via quella croce, l'acqua mi brucia, l'acqua benedetta brucia, brucia. Poi l'esorcista, con un piccolo escamotage, ha scoperto che la signora stava fingendo, e poi si è scoperto che era perché il marito la voleva lasciare e lei cercava di attirare l'attenzione. Aveva visto molti film e quindi sapeva esattamente esatto. come ci si comporta in quel caso. Ecco, però esatto, parliamo di attualità. Papa Francesco, secondo te, perché cita il diavolo? Poteva citare qualunque cosa parlando di maldicenza. Cita il diavolo. Un papa perché... che in questo momento sembra il papa più secolarizzato che abbiamo mai avuto, legato ai problemi dell'ambiente, della società, delle tensioni sociali. Ricita il diavolo che è alla radice proprio della necessità che tu dicevi giustamente, nel momento di difficoltà ci accorgiamo che ci serve un crocifisso per attaccarci, una chiesa per sentirci protetti. Perché lo tira fuori secondo te? Lo fa da sempre, non lo sta facendo nell'ultimo periodo, per tutto il suo pontificato ha parlato molto spesso del diavolo, intanto la sua provenienza geografica, Latino America, sappiamo che si parla molto, c'è il culto della Santa Muerte lì in Messico, ci sono tante cerimonie che si fanno, il Papa che arriva dall'Argentina sa bene che la figura del demonio è abbastanza conosciuto nelle sue terre e lì ne ha sempre parlato, continua a parlarne perché si rende conto che oggi anche con le nuove tecnologie tanti si avvicinano a degli ambienti, a dei movimenti, a dei gruppi che alla fine portano alla distruzione dell'uomo, e quindi lui anche con piccoli esempi, il diavolo è cattivo, bussa piano piano, entra, chiede permesso, invece poi ti istiga a parlare male dell'amico, del fratello, ti fa uccidere con la lingua, ecco, fa dei piccoli esempi molto popolari, però lancia ogni giorno quel sassolino per ricordare che c'è il male sempre presente, ma anche perché lui credo si sia reso conto da solo che stiamo vivendo un'epoca in cui il maligno sta diventando sempre più potente, e lui nella sua visione il diavolo è anche colui che consiglia coloro che schiacciano i poveri, coloro che distruggono l'ambiente, la sua visione è questa. Ma fermiamoci solo un secondo, che voglio far partecipare il pubblico, questo è importante, vorrei avere, unire a quella che è la tua importante ricerca, il tuo reportage di cui parleremo, anche quella che è la percezione generale in un campione medio italiano, quelli che ci ascolta quest'ora, quindi 800240024, qual è dal momento che ve lo cito in una serie, in un loop lunghissimo in cui parliamo soltanto di Covid, parliamo di aggressioni, parliamo di immigrazioni, improvvisamente riappare il diavolo, ecco, cosa suscita in questo, cosa risveglia in questo? Edoardo da Modena, buongiorno. Buongiorno, sono Nicoletti, e grazie. Allora, guardi, io sono profondamente critico nei confronti di Jorge Bergoglio, perché vabbè, si ricorda... Ma scusi un attimo, lei credente? Quale ha perso il decoro, cioè del magistero... È credente? E mi stia ascoltare, le faccio... Comodo. Vabbè, allora, lei è credente? Io sono credente, sono praticante non ossessivamente... La mia famiglia è tutta di credenti. E se mi permette, scusi, vorrei proprio per sintetizzare, ma il Bergoglio è un uomo politico, non ha nessun carisma evangelico, è il peggiore papa degli ultimi 50 anni. Edoardo, sopporto poco le persone. No, ma lei approfitta del privilegio che le do di parlare pubblicamente per fare un suo proclamo. Oggi il tema è il diavolo. Un credente che dice che il Papa è un politico, e lei ci deve avere un'opinione, senz'altro. Ma il suo Papa è il vicario di Cristo in terra. Lo dice una persona che è pieno di dubbi e è l'ultimo a poterne parlare. Quindi adesso lei perché segue un filone banale di dire il Papa è un Papa politico? Che c'entra? Parliamo di diavolo. Vuol parlare di diavolo? Ma il suo parere su Bergoglio non è interessante a chi ci ascolta. È interessante la sua testimonianza rispetto al concetto di diavolo. Se vuol prendere come una tribuna questo spazio per dire una banalità, che è una delle peggiori banalità che sta girando adesso, lo faccia pure. Se qualcosa a dire sul diavolo lo dica, però velocemente, perché... Ma sul diavolo è che mi meraviglia che il diavolo, che fa parte di una entità legata alla storia più classica e carismatica della Chiesa evangelica, perché sì, la lotta contro il diavolo è la base del credo. Vabbè, senta, della Chiesa Edoardo, cattolica. Edoardo, ha lievemente scocciato, mi scusi, non c'è di peggio che coloro che vogliono fare i teologi perché l'hanno letto in internet, che c'entra la Chiesa evangelica adesso, vuoti le sue carte, dica ho un atteggiamento critico rispetto alla Chiesa cattolica apostolica romana, ma è un problema suo, non è un problema che ci interessa in questo momento. Ci fermiamo un istante. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Melog. Io uso le stole lunghe perché una parte della stola avvolge le spalle della persona che esorcizzo. Uso un crocifisso particolare con innestata la medaglia di San Benedetto, che è piena di frasi contro il demonio. Una volta un piccolo calcio che mi ha tenuto la gamba ingessata per un mese. Questa era una puntata di Lucignolo, ricordate, una trasmissione, mi sembra d'Italia 1, sicuramente da 1, è Padre Amort, che era il decano e tutti gli esorcismi, che racconta alcuni episodi. Ora, tutti i grandi esorcisti fanno sempre un grande distinguo fra i reali casi di possessione diabolica, che sono piuttosto rari, i casi in cui magari c'è un problema tipo psichiatrico, un problema mentale, una simulazione, come prima diceva il nostro ospite. Ricordo che oggi parliamo del libro appena uscito, Il mio nome è Satana, storia di esorcismi dal Vaticano a Medjugorje, edizioni San Paolo, di Fabio Marchese Ragona, che è il vaticanista del gruppo Mediaset. Intanto ringrazio Pietro Lacorte, Alessandro Chiappini, che oggi in un virtual set lo potete vedere nella edizione video di questa puntata, Gloria Guerrera e Fabrizio Intonti, che sono a Roma. Prima di ridare un attimo parola al nostro ospite, che ha fatto un'indagine molto interessante su quella che è la presenza reale, l'attenzione viene data sia in Vaticano sia negli spazi contigui alla presenza del diavolo, e dà una lettura molto interessante dicendo che il Covid, fra le tante cose, ha fatto rinascere un senso popolare per la religiosità e allo stesso tempo per la paura di qualcosa di inspiegabile. È vero, sono state fatte messe e rituali religiosi per sconfiggere il Covid, e le chiese chiuse improvvisamente, che sono deserte nella maggior parte dei casi o poco frequentate, sono diventate però un punto di attenzione, perché le persone vogliono comunque avere questa riserva di serenità, di tranquillità, di riparo dalle proprie angosce, che è potersi mettere di fronte a un'immagine religiosa in un luogo in cui c'è un convergere di possibilità di aprirsi verso l'assoluto, e quindi inizia anche una paura per quello che è l'antitesi della religione o della spiritualità, che è appunto il grande mentitore, il grande turlupinatore, che è il diavolo. Sentiamo qualche ascoltatore velocemente. Luisa da Grosseto. Grazie, buongiorno e complimenti per la trasmissione. Ma io penso una cosa, io sono una credente, molto tra l'altro, non sono un osservante praticante, credo che il Vangelo vada vissuto così. Sì, parli del diavolo però, non me va ogni volta che mi fate sempre il raccontino di quello che siete. Mi dica del diavolo, quello che è lei mi fa piacere, buon per lei. Io no, assolutamente non credo che in questa figura del mentitore, io credo che come in ognuno di noi esiste una parte buona, esiste una parte cattiva, e noi siamo fatti di contraddizioni, di tutto, e credo che così come abbiamo bisogno di andare in una chiesa quando ci sono le persone da soli per essere di fronte all'assoluto, però così come credo che siamo pronti a fare, tra virgolette, dei chiacchiericci o a fare cose che eticamente sono brutte, ma secondo me non ci crede, Luisa, bisogna essere sintetici quando si parla alla radio. Io per me sono credente, ma nella figura del diavolo non ci voglio credere, non ci voglio pensare. È una lecita maniera di porsi, poi non sono io che devo giudicare. Mi interessa solo sapere in qualche maniera quello che è il pensiero medio del pubblico. Maria, buongiorno. Maria. Buongiorno, allora io sono credente, io credo in Dio e credo anche nel diavolo. Lo credo da sempre, non è che ho bisogno, cioè il Santo Padre lo ascolto, però non c'è bisogno che me lo diceva lui, e ne ho avuto anche esperienza diretta, non è che sono stata posseduta, però il diavolo è bugiardo, è mentitore, e si insinua fa leva sulle nostre debolezze, e questo non è perché io voglio discolparmi, vuol dare tutta la colpa a lui di quello che magari mi è successo, però in qualche modo io sono stata raggirata da una persona e mi sono lasciata usare consapevolmente, non sono stata astuta. Ho pensato che fosse una persona sincera, che invece cosa ha fatto? L'ha truffata o ha approfittato della sua virtù? Cosa ha fatto questa persona? Ha approfittato della mia amicizia, perché praticamente poi aveva delle convenienze sue personali verso un uomo che mi era parente. E praticamente detto tutto questo, le ha visto un muoversi diabolico. Devo capire esattamente. Muoversi diabolico, veramente. Va bene, mi interessa capire quanto è ancora presente questa idea, questo concetto. Manuel, buongiorno. Salve, buongiorno, grazie per la possibilità. Quello che volevo dire io era, la cosa interessante secondo me è che Papa Francesco ha evidenziato il comportamento, cioè non tanto il diavolo come figura che fa male, eccetera, ma proprio che determinati comportamenti portano poi a fare male, che può essere il chiacchiericcio. Quindi non ha evocato, eccetera, diciamo, l'immagine terrificante che no, potrebbe non dire il si diavolo usa con le corna e la coda biforcuta, ma ha spiegato la sottigliezza filosofica dell'agire diabolico, e quindi è una moderna maniera di ribadire un concetto che è importante nella religione, senza ricorrere comunque alle edicole con le fiamme che si aprono i peccatori dentro. Bene, questo è una prima sventagliata di pareri del pubblico. Allora, torno a Fabio Marchese Ragona. Nel tuo libro fai un excursus abbastanza interessante, storico, di come i vari papi hanno sia effettuato concretamente atti di esorcismo. Papa Wojtyła l'ha fatti, mi sembra che anche Papa Francesco una volta durante un'udienza fece un rituale benedizione a una persona malata, qualcosa del genere. Ma in particolare vedo, è il pezzo che hai riportato sul giornale oggi, è interessante, in questo momento particolare storico del nostro paese, che era l'anno 58, in cui c'era il pericolo ancora del comunismo che prendesse il potere, Pio XII ha fatto qualcosa che era relativo comunque alla presenza diabolica in qualche maniera per condizionare il voto degli italiani, qualcosa del genere, ho letto male? Sì, Pio XII, all'epoca erano le elezioni politiche del 58, c'era il pericolo per la Chiesa che il Partito Comunista Italiano andasse al potere con Togliatti, dall'altro lato c'era Fanfani con la Democrazia Cristiana, e Pio XII, dalle carte che ho trovato in archivio, era molto preoccupato per l'esito di queste elezioni politiche, tant'è che aveva chiesto ad alcune suore di pregare e di fare sacrifici per il buon esito delle elezioni. E poi ho trovato questa relazione giurata del principe Carlo Pacelli, che era il nipote di Pio XII e che aveva un incarico importante in Vaticano già dai tempi del predecessore di Pio XII, che svela, ed è la prima volta che veniamo a sapere questa cosa, che lui non riusciva a dormire perché era in ansia per il voto, e che nei tre giorni precedenti al giorno delle elezioni aveva fatto anche degli esorcismi a distanza per scongiurare il pericolo di una vittoria del Partito Comunista, e quindi aveva fatto già degli esorcismi a distanza contro Adolf Hitler. Era una situazione ovviamente diversa, disperata, questo Papa che pensava che Hitler fosse indemoniato, qualche vescovo tedesco, qualche cardinale gli aveva detto è indemoniato, il demonio si è impossessato di quest'uomo, e Pio XII arrivò al tentativo estremo di fare anche degli esorcismi contro Hitler sperando che venisse fermato. E anche questo è un capitolo della storia che ha qualche ombra, tu sai meglio di me, perché che è un papa a cui qualcuno comunque imputa il fatto che sapesse dei campi di sterminio degli ebrei, non avesse fatto quello che poteva fare, che era nelle sue. Però questa è una vicenda che in questo momento esula dal nostro discorso. E invece molto interessante, anche visto che lo metti anche nel sottotitolo del tuo libro, è tutta l'idea del diavolo legato a Medjugorje. Ora, il Papa Francesco si è espresso in maniera molto chiara sul fenomeno di Medjugorje, cioè non è che la Madonna va lì a appuntamento, appare e scompare, dimostrando un suo velato scetticismo rispetto a un fenomeno molto importante. Poi non ha avuto nessun effetto deterrente, che la gente continua ad andarci. Ma perché è presente il diavolo in questa situazione un po' strana di religiosità di massa, di fenomeni, di veggenti? Sì, anche lì ho voluto indagare perché Medjugorje è un luogo di grazia, anche il Papa lo ha riconosciuto, adesso sono stati autorizzati pellegrinaggi diocesani, prima non si poteva, dove c'è il bene c'è anche il male, quindi anche in un luogo di grazia c'è il demonio, e quindi ho avuto testimonianze, ho cercato storie, ho cercato testimonianze dirette di persone che proprio lì, a due passi da dove avvengono le apparizioni, le presunte apparizioni della Madonna, ci siano dei casi di manifestazioni diaboliche col diavolo che urla, che cerca di scagliarsi, che cerca di scagliare questi posseduti contro le veggenti. Ho parlato con Monsignor Hoser, che è l'inviato del Papa lì, che sta cercando di capire cosa succede. Comunque c'è un inviato del Papa, cioè il Papa ha messo la sua intelligence, sì, comunque a Medjugorje per capire che succede. Ha messo l'arcivescovo emerito di Varsavia, Praga, un uomo che ha vissuto gli anni del comunismo, dell'Unione Sovietica, l'ha messo lì a controllare cosa succede, e Monsignor Hoser, si chiama così, mi ha detto sì, ci sono qui anche durante i raduni con 10.000 persone, succede che qualcuno a un certo punto inizia a urlare, a ululare come un lupo, perché sono manifestazioni diaboliche che accadono perché la presenza di tanta fede disturba il padre della menzogna, che è il diavolo, e quindi cercano di scagliarsi contro questi veggenti che sono lì. Che dicono di sentiamo un attimo, sentiamo Angelo un attimo. Angelo, buongiorno. Sì, buongiorno. Ascolto. Io volevo dare una mia testimonianza di ho visto una ragazza posseduta. Mi era successo che io conobbi tanti anni fa un esorcista e mi insegnò dei trucchi per riconoscere una persona che potrebbe avere il demonio. Ce ne dica uno, così capiamo anche noi la differenza. Loro mi hanno detto hanno un odore di vignaccia, di uva marcia, un po' tipo di vino, un po' come l'alito di un alcolizzato. Hanno un odore sgradevolissimo sul corpo. La fiatella alcolica è sintomo di presenza diabolica. Sì, hanno un odore strano. E niente, questo esorcista mi disse, guarda, tu per riconoscere una persona indemoniata devi guardare queste tre cose, mi disse tre cose, no? E no, il fiato che sta ad alco, che però è un po' confusivo, sì, perché e poi capita spesso. Odiano e detestano i simboli sacri e entrare nella chiesa, loro non vogliono entrare nella chiesa, trovano le scuse più assurde, no? Beh, io conobbi una ragazza, ci uscì assieme e ebbi una bella serata e tutto quanto, però io sentivo questo odore particolare, no? Ma non è che l'aveva fatta bere un pochino per magari poi no, approfittarne? No, niente alcol, anche perché io sono abbastanza uno che non mi piace tanto l'alcol. E niente, eravamo in macchina, parlavamo e parlando mi raccontava un po' la sua vita, mi disse che lei in chiesa non ci andava, no? Perché io ho detto, io sono credente, non sono un praticante al 100%, però sono credente. E lei mi disse che lei in chiesa non entrava. Finora aspetti un attimo, per dare un po' di allora, potrebbe essere semplicemente una ragazza che ama alzare il gomito o che non è credente. Sono due circostanze abbastanza comuni. Uno esce con una persona, è una a cui piace bere e non gli piace andare in chiesa. Ma qual è il terzo sintomo che l'ha detto la sua fonte, che dà inequivocabile certezza che potremmo trovarci di fronte a possessione diabolica? Ci sono queste due, poi hanno gli occhi, hanno l'occhio opaco, non hanno l'occhio lucido, diciamo un occhio bello, pulito, nitido, hanno un occhio opaco, un po' come quando hai la catarata. Niente, cosa feci io quella sera? No? Mi viene il dubbio, perché questi due su tre, mi hanno ricordato... Non c'aveva l'occhio con l'occhio opaco, però l'occhio era lucido. No, non gli ho fatto caso a quello, sinceramente. Ecco, come ha scoperto che era realmente indemoniata? Poi dobbiamo dare la linea. Come ha scoperto la fine? Avevo un'immaginetta santa dell'ostia sacra, benedetta, sì, nella tasca della portiera. Gliel'ha allora, appoggiata addosso? Gli ho detto, più degli occhi apri la mano, così per curiosità. E lei dice, ma perché? Fallo, ti rimetto una cosa in mano, voglio vedere una cosa. Come gli metti l'immaginetta in mano questa ragazza? Cosa gli ha messo in mano la signora? L'immaginetta sacra? Un'immaginetta dell'ostia sacra, sì, sai, quella con la coppa. E cosa ha fatto? Qual è stata la reazione della ragazza? Ha incominciato ad avere convulsioni e mi diceva, che cazzo mi hai fatto, cose così. E giuro che ho la pelle d'oca ancora adesso per ricordare. Poi si è alzato un vento che smuoveva la macchina, io gliela tolsi subito, gli dici, cara mia, ciao, accompagnata a casa, non ci vediamo più. E durante il viaggio di ritorno ha dato altri segni di stranezza oppure ha fatto finta di niente? No, dopo è tornata normalissima e gli dici, vabbè, ragazzi, succede una cosa del genere, uno ci pensa. A parte anche una ragazza che uno dice chiudi gli occhi, ti metto qualcosa in mano quando siete soli così, e lo fa così a cuor leggero, già in sé secondo me è sulla strada diabolica del peccato. Però se lei dice che lei non aveva visto l'immaginetta e si mette a urlare come se avesse messo una cosa arroventata, in effetti la cosa fa pensare. Ci fermiamo un istante. Melog 800240024, non pensate che mi sia preso gioco dell'ascoltatore, l'ascoltatore è teso a sdrammatizzare una testimonianza, però era perfettamente convinto, era tutti gli elementi comunque nel suo ambito di riferimenti, di pensare che il segreto che gli aveva detto il suo amico esorcista corrispondesse alla caratteristica di questa ragazza che effettivamente aveva una sorta di istintiva repulsione per l'immagine sacra. Torniamo alla realtà, torniamo a Fabio Marchese Ragona, che ricordo autore del Mio nome è Satana, storia di esorcismi tra Vaticano e Medjugorje. Abbiamo analizzato, diciamo, un po' il passato e un po' la questione di Medjugorje, in cui mi sembra chiaro che ci siano degli osservatori per capire bene cosa ci sia dietro al fenomeno, perché la Chiesa prima di esprimersi ufficialmente su un fenomeno deve avere tutte le informazioni. Però, diciamo, come sintesi del tuo lavoro di vaticanista, del lavoro importante che hai fatto di documentazione rispetto al libro basato sui documenti, non sulle ipotesi, quindi perlomeno mi sembra di capire che c'è un tracciato continuo, ininterrotto, al di là della percezione esterna che noi abbiamo da profani, da osservatori banali, di quelli che sono gli alternarsi dei vari papi, però c'è una costante di attenzione comunque anche a questo aspetto. In questo momento magari forse appare più o meno presente, perlomeno come dichiarazioni ufficiali, ma c'è ancora all'interno della Chiesa un apparato, un ente, un'istituzione, qualcosa che ha lo specifico compito di monitorare questa presenza negativa in maniera concreta, reale e con gli strumenti tradizionali, non con l'analisi psicanalitica o della fisica quantistica, semplicemente con i vecchi strumenti, crocifissi, acqua santa e esorcismi. Sì, c'è un'associazione internazionale degli esorcisti che è riconosciuta dal Vaticano, che è un'associazione che non è interna al Vaticano ma è collegata al Vaticano, perché il Vaticano la riconosce, c'è un presidente, il presidente onorario era padre Amort, sono tutti esorcisti, ovviamente è come se fosse un'associazione appunto che raduna tutti gli esorcisti in tutta Italia, ed è ovviamente questa associazione tiene d'occhio, monitora il fenomeno. E molto spesso capita che deve smentire delle affermazioni che trovano, che sentono, se c'è qualcuno che dice io sono un esorcista, faccio rituali ma mi dovete pagare 200 euro a seduta, ecco, in quel caso interviene l'Associazione Internazionale degli Esorcisti e smentisce e chiarisce che ad esempio quella persona non è un vero esorcista, oppure fanno le campagne contro appunto i maghi, perché sempre più spesso sentiamo di persone che vanno dai maghi, da queste persone che fanno i malocchi, che fanno magia nera, che ecco, penso che il rischio più grosso sia per la Chiesa è l'appropriarsi di tutto il settore sciamanico, stregonesco, fattucchiero, di questo malessere generale, perché una delle prime cose per cui la gente va dalla fattucchiera è farsi togliere il malocchio, è farsi togliere la fattura, che ancora esiste a vari livelli, e questo è un mercato parallelo naturalmente, e di cui il primo averne danni è proprio chi dovrebbe in realtà tutelare la serenità spirituale delle sue pecorelle, quindi la Chiesa, e questo è il vero problema. Sì, perché poi queste persone vanno a inserirsi in dei circuiti, in dei percorsi tortuosi in cui viene richiesto dal mago, dalla fattucchiera, prendi una ciocca di capelli di quella persona, facciamo un bel rituale, poi si innescano dei meccanismi tali e va a finire sempre che quelle persone poi in un modo o in un altro finiscono fagocitati da questo sistema diabolico, e poi iniziano ad avere sintomi, iniziano ad avere problemi, non dormono la notte, compaiono delle ferite sul corpo senza motivo. Queste sono testimonianze che ho raccolto. Se questo era il grande problema quando c'era una maggiore attenzione, che è un fenomeno un po' datato, sempre presente, ma è tipico del momento in cui il positivismo ha affermato la sua supremazia, e questo Dio che viene proclamato morto rientra comunque da qualche fessura e scoppia lo spiritismo, il nuovo spiritualismo, le teosofie, tutte queste cose qua. E in questo caso I buoni preti dicevano: state attenti a cercare di parlare con i morti con il piattino, con pratiche anche molto semplici, che è anche tema di un'infinità di film dedicati al caso. Si aprono delle fessure che, dalle quali poi magari può entrare di tutto. Esiste ancora questo problema per la Chiesa? Esiste, continua. Il Papa non a caso ne parla molto spesso, perché sa, perché si informa su queste tematiche. Quello dello spiritismo, ad esempio, il chiamare i morti, è una pratica che purtroppo, da quello che mi dicono gli esorcisti, continua, cioè tante persone si radunano, fanno le sedute spiritiche, attirano spiriti, mi raccontano di case infestate, di luci che si accendono di notte, di mobili che si muovono. Un esorcista mi ha raccontato che entrò in una casa e trovò delle impronte di animali sul tetto, impronte di zoccoli. Constatarono che non erano disegnate, che erano delle vere impronte, e poi si scoprì che l'inquilino del piano di sopra praticava rituali magici e messe nere, e l'esorcista rimase lì, fece tutta una benedizione della casa, e quelle impronte, quegli zoccoli lì, sparirono all'indomani. Poi una coppia di sorelle che dormivano insieme, vivevano insieme, zitelle tutte e due, di notte non riuscivano a dormire perché c'erano dei fasci di luce incredibili che svegliavano il loro sonno. Allora l'esorcista diceva: non è che dormite con la finestra aperta e magari c'è qualcuno con la macchina che passa. Provarono, chiusero le finestre e quella luce non si capiva da dove proveniva. Poi fecero una benedizione nella casa e improvvisamente quella luce sparì. Quindi ci sono tutti questi casi che... C'è ovviamente... un tentatore con la spada di fuoco che di notte attentava alla loro inquietudine, evidentemente, a due sorelle zitelle, esatto. Qualcosa del genere. Molte volte istanze, desideri, ambizioni si concretizzano in qualcosa. Ecco, tu pensi che oggi, nel momento particolare di indubbia crisi, ci sia ancora necessità da parte della Chiesa di ritirare fuori l'elemento diabolico? L'ultima, proprio velocissimo, che siamo in sigla. C'è, per forza, perché se c'è Dio c'è anche il diavolo. È una necessità, nel senso che lo dice la Chiesa, lo dice la dottrina della Chiesa, lo dicono i testi sacri. Il diavolo esiste perché esiste Dio, e quindi il diavolo è una creatura di Dio, e quindi per questo esiste e va combattuto. Il Papa lo fa tutti i giorni. Ti ringrazio, Fabio Marchese Ragona, grazie all'ascoltatore, alla prossima. Per le aziende e professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it.